Rapino, abbiamo ancora due interventi che non saranno lunghissimi e poi vi prego di restare perché ci sono delle repliche, in particolare, come ovvio, come ho detto, quindi di avere la cortesia. Se qualcuno ha all'Anguore di Stoma, abbiamo preparato dei cibi per stare seduto mangiando. Pino Tripodi è un compagno che collabora con i centri sociali, è intervenuto frequentemente nei dibattiti del manifesto e in libri che sono usciti intorno a queste tematiche di cui abbiamo parlato oggi. Pino. Ma io credo che in tutto questo dibattito una posizione che è stata espressa tempo addietro da Rossana Rossanda sia veramente il segno dei tempi. A un certo punto la Rossanda dice in un suo articolo, che peraltro non condivido, il fatto di continuare a segnalare con la matita blu gli errori altrui è una stupidaggine. Io credo che questo segni i tempi, perché abbiamo attraversato un periodo veramente fosco, che è quello degli anni Ottanta, in cui tutte le pratiche sociali, anzi in assenza di pratiche sociali diffuse, ci siamo ritorti in una serie di polemiche incredibili che da un punto di vista teorico non producevano nulla e ancor meno producevano dal punto di vista delle pratiche sociali diffuse. Ora, quello che contraddistingue la presenza di una teoria capace di produrre effetti di liberazione da altri che invece inducono all'immobilismo, penso che sia esattamente questo. E questo è il motivo per il quale in questi due anni di dibattito politico ho condiviso spesso una serie di posizioni di Marco Revelli, perché hanno il pregio assoluto di testimoniare una passione politica finalmente nuova, una passione politica dalla quale si può ricominciare a fare e non soltanto ricominciare a dire. Credo che sia facile criticare e che in un campo dove viene praticata tanta critica rimanga soltanto la sterilità. Occorre avere invece un elemento progettuale e creativo dentro la nostra sfera di azione. Ora, non mi è possibile ovviamente parlare di tutto il dibattito che qui c'è stato, mi riferirò semplicemente a due elementi che credo centrali, cogliendo l'invito di Alberto Burgio, di dichiarare quando si parla di che cosa si parla e come se ne parla. Il problema della socialità e del conflitto è il problema della rappresentanza e del conflitto. Ritengo anche che la questione dello Stato, che lo stesso Alberto Burgio sottolineava, sia una questione spinosa, dalla quale occorre uscirne anche qui attraverso le pratiche sociali diffuse. Io ritengo, e sono parte di quelle posizioni teoriche che ritengono che la questione dello Stato sia stata una iattura per il movimento operaio, soprattutto quello della sua conquista, e che pensare all'abolizione o all'estinzione dello Stato sia semplicemente una stupidaggine. Pensare altrimenti che ci possa essere una statizzazione dei movimenti, cosa che è avvenuta nella pratica sociale, credo che sia avvenuta proprio perché gran parte dei movimenti, per quanto escludevano questo orizzonte, poi si sono impattati con questo orizzonte e le pratiche del lottarmatismo negli anni 70 e negli anni 80 lo hanno dimostrato. Quindi io ritengo che occorre pensare al fatto che lo Stato c'è e ce lo teniamo e che occorre avviare pratiche sociali attraverso le quali, al di là e oltre lo Stato, ma in perenne conflitto con gli elementi della regolazione della vita, perché lo Stato, io mi rifaccio a una posizione teorica di Baudin, lo Stato non è altro che lo strumento che regola la vita degli individui e dei cittadini. Non c'è stato operaio, non c'è stato rivoluzionario che non cattura a questa regolarizzazione della vita e dell'esistenza gli individui allo Stato, gli individui all'apparato, gli individui alla rappresentanza, gli individui a tutto ciò che appunto costituisce cattura, costituisce coercizione, costituisce violenza. Quindi ovviamente sono per funzioni parallele, questo potrà sembrare antidialettico e lo è, ma ritengo che ciò debba essere. Ora, giustamente Alberto Burgio diceva entriamo nel merito del non profit, non c'è soltanto una visione del non profit, ce ne sono diverse. E anche relativamente alla socialità, non c'è una neutralizzazione della socialità. Una socialità neutra non esiste. Ogni società affermando i suoi modelli di produzione, affermando i suoi stili, affermando i suoi comportamenti, affermando le sue regole di relazione tra gli individui, dei modelli di socialità differenti. E entro questi modelli di socialità differenti occorre entrare. Certo. Il modello di socialità che è stato diffuso dalla polis greca è una cosa, il modello della socialità diffuso nel Rinascimento un altro, il modello della società diffuso nella storia del movimento operaio o un'altra ancora, ritengo che il modello della socialità al quale bisogna pensare è una cosa estremamente diversa. Oggi, giusto per le profonde trasformazioni a cui Marazzi, Revelle e gli altri hanno fatto riferimento. Quindi lo studio della socialità, ritengo, di qualsiasi periodo storico, attraverso questo studio è possibile comprendere in modo concreto, indipendentemente dalle categorie che vengono utilizzate, le forme di gerarchie, di assoggettamento, di rapporto tra le classi e anche tra i generi, in ogni società. Per questo ritengo che il problema della socialità sia una questione fondamentale. E per questo ritengo che il problema della socialità sia una forma che allude allegoricamente al conflitto. Così come allude allegoricamente, per i diversi modelli di socialità, agli elementi di conservazione e di reiterazione del dominio e del comando sulle persone da parte del capitano. È chiaro, e qui entro nel merito, che socialità è quello della parrocchia, socialità è quello della discoteca, socialità è quello dei centri sociali. Ma ovviamente questi modelli di socialità sono modelli estremamente differenti. Ciascun modello di socialità allude appunto a strutture e a formazioni sociali completamente diverse tra di loro. E qui riprendo un problema spinoso, che è quello del fare società. Lo proponeva Revelli nell'ultimo capitolo delle Due Destre, ne parlava Michel Foucault in un bellissimo libro, Difendere la società, nel quale libro, e anche in altri studi, Foucault riteneva che anche il capitale, anche lo Stato, non solo era un mezzo di regolazione, ma era un mezzo di positività, dove per positività occorre intendere anche questo, e cioè che a suo modo di vedere, nelle pratiche sociali che si concatenano, il capitale produce società. Anche il capitale ritengo che costruisce società, è una società che ovviamente sta agli antipodi di quella che vogliamo costruire noi, è una società di merda e occorre dichiarare quale modello di socialità e quale modello di società contrapponiamo a quello del capitale. Il problema è capire, e qui è veramente intricato entrare nel merito, quale modello contrapponiamo a quello che continuiamo a definire come pensiero unico. Il pensiero unico non è soltanto quello del liberismo, ma anche il fatto che purtroppo, allo stato attuale delle cose, non esiste un'economia alternativa. Sono convinto che non esista e che gli strumenti ereditati dalla teoria marxista sono strumenti per la gran parte da buttare a mare. Non condivido quasi in toto il discorso teorico che fa il MOS, Movimento Antiteorista delle Scienze Sociali, di Alain Cayet e Serge Latouche. Ritengo che i compagni, compreso lo stesso Revelli, che hanno mutuato parte del discorso da Latouche, sbaglino perché Latouche, come Alain Cayet, individuano una serie di categorie globalizzanti che poco spiegano dei processi reali e, di contro, contrappongono spesso alcune non cose ad altre non cose, alcuni non luoghi ad altri non luoghi, tutto dentro a un problema autoreferenziale delle scienze sociali. Non dimentichiamo che nella rivista, nel bollettino del MOS, una delle polemiche che più ha, su cui più si è insistito è quello del ni droit ni gauche, e non è certamente un caso. Il problema della socialità quindi è un problema fondamentale. L'elemento relazionale e quello comunicativo, ci ricorda benissimo Christian Marazzi, ha intriso l'agire produttivo, tant'è che la stessa amicizia è diventata una forma dell'impresa. E qui si registra un altro scacco teorico, che è lo scacco teorico del discorso comunicativo di Jürgen Habermas. Un elemento essenziale, ritengo, del potere contemporaneo è che il potere di relazione è un potere esso stesso da cui dipendono le fortune, le ricchezze e lo status, e che questo non riguarda tout court la società cosiddetta capitalistica, ma riguarda anche i nostri rapporti, come rapporti tra persone, anche all'interno, quindi anche relazioni interpersonali, che ci sono anche all'interno di questo centro sociale, come all'interno degli altri. La socialità e l'agire sociale entrano in ogni interstizio della privacy e i rapporti interpersonali sono sempre più costretti entro lo Stato e il mercato. Il mercato e lo Stato, quindi, credo che non abbiano semplicemente occupato lo spazio pubblico, ma anche la sfera privata della socialità, che è totalmente o quasi totalmente sottomessa alle leggi dello Stato e alle leggi del mercato. Viviamo in un periodo di legalizzazione, di statizzazione, di regolazione diffusa, pervasiva, no? E questo non è dovuto alla bontà o alla cattività dello Stato, è dovuto al potere macchinico dello Stato, al suo divenire. Non dipende quindi dalla essere al governo oggi Prodi o essere al governo altrove altre forze politiche. La sfera della socialità e quello dell'agire pubblico rimandano quindi nella società contemporanea l'uno all'altro, cioè allo Stato e al mercato. Questo è fondamentale, io credo, perché contrariamente a tutti gli insegnamenti della storia recente, particolarmente a quella dei movimenti degli anni 60 e degli anni 70, forse, non abbiamo compreso fino in fondo che un elemento fondamentale del conflitto è stato quello contro la colonizzazione dei mondi vitali e che oggi la speranza che nutro, per la quale lavoro, è che siamo alle soglie di una grandissima battaglia storica per la decolonizzazione dell'esistenza, per questa sfera che ormai viene eteroregolata completamente dallo Stato e del mercato. Sono convinto altresì che non ci sia un processo di omologazione globalizzata, che a ogni processo di assoggettamento ne corrisponde un altro, che di conflitto, che di risposta puntuale dentro le pratiche sociali diffuse del fare società. Se è vero che l'economia politica, ed è l'unico, ripeto, elemento che colgo, credo, di Alain Cayet, ha registrato uno scacco, è forse possibile parlare di un'antieconomia o, se si preferisce, di un'economia del desiderio. Il problema della socialità, quindi, rimanda all'attuale tipo di società e su questo vorrei fare una breve digressione relativamente alla teorizzazione di Debord. Non credo che siamo più semplicemente alla società dello spettacolo, ma più precisamente alla società degli spettatori. E questo rimanda all'altro problema cruciale, che è quello della rappresentanza e della democrazia. Lo spettatore, si badi bene, non è privo di socialità. Ha una socialità che conduce, magari, al parossismo, che sono le forme della comunicazione e della società contemporanea, essendo per lo più una socialità virtuale, che si riconosce e si rappresenta nello spettacolo, sia live, dal vivo, che nel video. In questa società degli spettatori, anche gli spettatori non sono uguali, non sono come quelli debordiani, e questo credo che sia pratica sociale diffusa. Tutte le iniziative culturali che sono state fatte al Centro Sociale Conchetta, al Leoncavallo, al Garibaldi o a tutti gli altri luoghi in cui ciò si è esperito, penso che abbia permesso di comprendere come la società degli spettatori si è formata da tre pubblici differenti. Il primo pubblico credo sia quello degli spettatori, che costituiscono il mondo dei derelitti alla mercé dei media, ma non è un mondo omologato. Il secondo pubblico credo che sia quello dei produttori, cioè quello che costituisce proprio la classe dell'assoggettamento nell'era mediatica o post-mediatica, come la chiama Guattari. Ma c'è anche un pubblico che ritroviamo qua dentro, qui in questo centro sociale, in questo momento, che è quello dei produttori spettatori, che intrattengono con i primi una serie di rapporti complessi. Spesso ci troviamo in situazioni nelle quali io canto, ma quello che mi ascolta suona, io faccio una relazione sul no profit, ma quello che mi ascolta potrebbe fare benissimo e meglio di me una relazione sullo Stato, Marco Revelli parla di antifascismo e qui l'ascolto sarebbe in grado benissimo di parlare, poniamo, di mondializzazione. Questi tre pubblici sono in assoluta dinamicità nel momento attuale, il pubblico degli spettatori è in declino, così come quello dei produttori. Quello dei produttori consumatori, invece, proprio per le dinamiche che ha descritto perfettamente Cristian Marazzi, sono in profonda insorgenza. E questo pubblico dei produttori spettatori, ritengo, che rappresenta sia socialmente che culturalmente la base di una possibilità e di una socialità altra. Questo pubblico inerisce e si inserisce nelle profonde trasformazioni della composizione di classe, non è estranea a questo. e all'immissione che avviene sempre in modo più massiccio nel processo produttivo, dove, e anche qui ritornano gli echi delle nostre teorizzazioni future, per produzione non si intende la produzione della merce materiale, si intende la produzione di esistenza, di tutto ciò che noi facciamo, diciamo, produciamo, sia in termini materiali che in termini immateriali. Credo che sia questo il pubblico fondamentale, la massa critica che troviamo particolarmente dentro i centri sociali, ed è questo il motivo per il quale io amo lavorare particolarmente dentro i centri sociali. Ora, il problema da porsi è che tipo di modelli sociali e politici questo pubblico si può dare, diversi da quelli dati fino a questo momento. Il pubblico degli spettatori delega ad altri la rappresentanza, delega ad altri la rappresentazione che avviene in forma di miti, di produzione di cultura e di produzione di agire politico. Lo delega alla televisione, lo delega al partito, lo delega al sindacato. Il pubblico dei produttori avoca a sé queste forme di socialità e di società. Quello dei produttori spettatori invece, sul piano sociale e su quello economico, sia su quello politico, spesso non ha bisogno di alcuna forma di rappresentazione, di alcuna forma di rappresentanza. Ed è questa, io credo, la novità con cui fare conto. Cioè, cresce nella società contemporanea, per effetto di queste trasformazioni, la possibilità di creare un agire pubblico che non sia inserito dentro la sfera della rappresentanza. Non sono convinto comunque che siamo in una crisi della rappresentanza. La crisi di per sé è una categoria che spiega nulla. Siamo, credo, in una situazione di trasformazione profonda della rappresentanza, in cui sempre di più, ma anche questa ha a che fare con il potere macchinico dello Stato, alcuni delegano semplicemente, senza prenderne parte dal punto di vista della loro partecipazione, ad una società non partecipata in cui si delegano le funzioni di potere, le funzioni di comando, le funzioni dell'agire politico alla sfera alta dell'agire politico stesso. Sono convinto altresì che la società degli spettatori non nega la democrazia, anzi la esalta, o per meglio dire la totalizza. Siamo in un periodo, credo, di una democrazia totalizzante. E qui potremmo rinverdire una polemica relativa al fatto che non sputo alla democrazia, per carità di Dio, la ritengo una condizione consustanziale alle forme del capitalismo contemporaneo. Ritengo però che la democrazia sia lo strumento adatto storicamente alla regolazione del potere, quella che evita le antinomie hobbesiane tra caos e guerra civile, tra Behemoth e Leviatano. La democrazia credo quindi che sia la sfera del politico, intesa come sfera che non ha dentro di sé né funzione di liberazione né funzione di emancipazione, ma funzione di equilibrio e di assoggettamento. L'agire democratico ritengo che sia un agire dentro, immesso dentro la sfera statuale. Con questo, ripeto, non demonizzo lo Stato né demonizzo i partiti. Ho sentito anche recentemente da un compagno che in alcune sezioni di Rifondazione Comunista o anche dei centri sociali si dice che Rifondazione Comunista è un tappo, levato il quale facciamo la rivoluzione. O che il Leoncavallo è un tappo, levato il quale il conflitto si diffonde a macchia d'olio. Questo ovviamente è una cazzata. Io ritengo che ciascuno deve fare il suo ruolo. Sono contento, lo dico apertamente, che Rifondazione Comunista abbia il 12, il 15, il 20, il 25% dei voti, così come altre forme della rappresentanza degli interessi di classe, ma sono convinto che al di là di quelli occorre produrre altro. Ciò che bisogna immaginare sono invece forme di esocrazia, cioè di potere esteriore alle funzioni di comando, di assoggettamento e di gerarchizzazione. Quello che occorre fare quindi è contendere allo Stato il mondo della rappresentazione e dell'espressione della socialità, che deve essere sottratta sia al mercato che allo Stato. Il problema quindi è, a mio avviso, come esprimere nel mondo della non rappresentazione e nella socialità, nella produzione, il nostro modello di agire politico. L'agire politico non è assolutamente scisso dall'agire della socialità, occorre prendere atto che bisogna fare questo. Non a caso, reiteratamente, nell'ultimo periodo parliamo di soggetto politico esterno, dove per soggetto politico esterno ovviamente non si intende il partito o o altro. Anche qui posso fare riferimento ai centri sociali. Se anche nel libro della Sheikh è stato scritto che non sono case del popolo, è dovuto proprio a questo, perché le case del popolo delegavano ad altri, cioè al partito e al sindacato, la sfera della rappresentanza politica. I centri sociali invece tendono ad avocare a sé anche le funzioni dell'agire politico in città, dell'agire politico nella polis. E se dovessi dire dal mio punto di vista cosa sono i centri sociali, sono convinto che il problema dell'essere è sempre un problema di Becchini, occorre sempre definire il divenire delle cose, per questo una serie di identità e di differenze è un esercizio a volte teorico privo di grande spessore, però se dovessi dare una definizione dei centri sociali, ritengo che siano le prime forme politiche dell'agire politico oltre l'era della rappresentanza. È ovvio che in parte rimangono a pieno titolo una serie di soggetti sociali che hanno delle funzioni di potere, perché hanno ancora dei meccanismi, degli organismi che permangono nella loro sfera democratica, nel loro agire politico democratico. Per esempio tutti i centri sociali o l'auto-organizzazione sono pieni di nicobuli, cioè di vincitori di assemblea, che ricreano una serie di meccanismi di assoggettamento, di comando e di gerarchizzazione delle sfere dei soggetti sociali. Ritengo invece che le funzioni di liberazione, le funzioni di trasformazione sono proprio quelle che avvocano ai centri sociali o a qualsiasi altra funzione di auto-organizzazione e di autoproduzione l'espressione dei desideri e le prassi di liberazione che nelle città volta a volta confliggono e si contrappongono a quelle che il potere urbano, il potere della polis, attua. Sono quindi forme, quelle che occorre costruire, ritengo, dell'agire politico a tutto campo, non escluso quello del governo della città, non escluso quello del governo della città. Sono luoghi, ritengo, questi o altri da costruire, in cui occorre cambiare registro, occorre che ci sia un registro sovversivo, in cui finalmente la grande impresa, questa sì, dell'amicizia, non debba essere confusa come l'amicizia in forma di impresa. A volte anche tra noi ci rendiamo conto che l'amicizia è una forma di impresa, di autoimprenditoria, anche nei centri sociali, e che in qualche modo attraverso questa impresa ci si può contrapporre alla socialità come elemento di consumo. I centri sociali hanno diffuso un modello. Chi ha visto, per esempio, la espressione culturale di questo mese a Milano, avrà potuto capire senza ombra di dubbio che non è mai stata così ricca negli ultimi 20 anni, a quanto mi pare di registrare. Soggetti politici, sociali, istituzionali si sono messi in una forma di espressione delle culture in quanto musica, in quanto altro, che è veramente incredibile, scimmiottando totalmente a volte il movimento o l'espressione culturale dei centri sociali, producendo evidentemente altro, un elemento di consumo rispetto a quelli, alle funzioni di liberazione, eccetera, che altrimenti i centri sociali dovrebbero produrre. Altre due battute sulla questione del welfare. Non dimentichiamoci che è esistito un welfare all'italiana ed esiste anche una distruzione del welfare all'italiana. Il welfare all'italiana dei decenni scorsi era un welfare che aveva un portato autoritario immesso dentro i meccanismi della socializzazione di Stato attraverso le pratiche della clientela, del consociativismo e della concertazione tra partiti e sindacati. C'era un welfare che nasceva invece dentro i movimenti, che consentiva anche in mancanza di reddito e di lavoro ai soggetti sociali di avere, e spesso anche tanto, livello di consumo e di ricchezza. Anche nella distruzione del welfare, e qui è interessante il problema del non profit, si rischia di avere una gestione autoritaria della distruzione del welfare, mentre invece occorrerebbe tentare di ribaltare questa situazione attraverso quella che si può definire in soldoni molto schematicamente una pratica diffusa dell'autogestione e dell'autoorganizzazione come modello sociale e produttivo. Ritorna al problema della funzione allegorica dei centri sociali. Non è autogestione nel senso titino o nel senso della tradizione anarchica, è invece la proposizione come modello sociale e produttivo diffuso nella società di questi elementi. Direi anzi, per scimmiottare Sergio Bologna, che occorre produrre forme, anzi, più precisamente, come dice lui, occorre produrre prototipi mentali che siano in grado di proliferare nella città e nella società contemporanea. E un'ultima questione, se mi permettete, relativamente alla forma partito. Io credo che tutti noi, o gran parte di noi, rifiutino la forma partito, però nelle nostre pratiche sociali e anche nelle nostre pratiche teoriche continuiamo a riformulare. Parliamo tanto di rizoma, ma in testa abbiamo un albero ben piantato ed è difficile uscire da questa situazione. Continuiamo a produrre la logica dell'evento culturale, dell'evento seminariale, dell'evento politico, invece di badare a produrre un vento, cioè qualcosa che ha la capacità di proliferare e di distribuire saperi e pratiche sociali diffuse nel territorio. La problematica più importante a questo punto, indipendentemente dalle nostre posizioni teoriche, credo che sia quale atto si può compiere quotidianamente nella nostra pratica politica che permetta di far proliferare pratiche di liberazione con effetti stessi di liberazione. E abbiamo, credo, spesso un atteggiamento conservatore, e l'atteggiamento conservatore lo si è visto nella lotta contro le pensioni. Spesso i soggetti sociali sono costretti a scegliere la pratica dello Stato contro quella del liberismo. Siamo ritorti a difendere con il sangue e con i denti, non dico che non si fa bene, facciamo benissimo a farlo, ma a difendere con il sangue e con i denti alcune cose nelle quali non ci siamo, o perlomeno io non mi sono mai riconosciuto. Per esempio la tematica delle pensioni, quando una serie di teorie politiche, mi riferisco per esempio a quella di Gorz, relativamente a questo è molto importante. La seconda, un altro elemento di grande conservazione del dibattito attuale è quello della scuola. Anche lì, io sono insegnante e sono stato nel movimento dei COBAS, abbiamo dovuto scegliere, dobbiamo scegliere tra la scuola di Stato e l'aziendalizzazione della sfera dell'istruzione. È una logica che non mi trovo d'accordo, perché è una scelta mortale, ovviamente. Occorre anche qui tentare di dimostrare come una pratica, mi riferisco alla passione politica di Revelli, che può produrre ottimi effetti, può essere innovativa e positiva. Perché non pensare, per esempio, che ci si può uscire da questa forbice tra statizzazione dell'istruzione e aziendalizzazione della scuola attraverso una serie di conflitti che possono determinare elementi di autogestione e di auto-organizzazione di quella scuola, di quella sfera, cioè della scuola, cioè una nascita di una sfera pubblica che contemporaneamente sia in grado di contrapporsi sia allo Stato e al mercato. Nella scuola, per esempio, è noto che ci sono decine di migliaia di sovrannumerari, anche a Milano, è noto che ci sono spazi incredibili che il piano terribile del capitale a Milano ha prodotto senza che siano occupati, perché prevedevano una profonda terziarizzazione, molto di più di quella che c'è stata in città, cosa che non è avvenuta. Ci sono spazi che possono essere agiti dentro questa sfera dell'autogestione di forme di sperimentazione sociale che pur hanno attraversato la scuola, lo hanno attraversato negli anni 60, negli anni 70, e Moroni ci può dire qualcosa di quanto la Calusca stessa è stato terminale di questi elementi di sperimentazione. Ci sono per esempio elementi straordinari che si potrebbero cogliere dentro un progetto relativamente a questa situazione. Ci sono periferie che muoiono dal punto di vista della scolarizzazione, che raggiungono punte del 30 o del 50% della mortalità scolastica. Perché non intervenire in quelle, producendo conflitto e producendo forme di autogestione e di auto-organizzazione come modello diffuso? Identica cosa si potrebbe dire, non so, per gli asili autogestiti, ma identica cosa ritengo che si possa dire per l'agire politico in città. Milano è la città più a destra d'Italia, tra le grandi città, è una città in cui la sinistra non si capisce dove stia, esiste pochissimo e malissimo, è scarsamente in grado di contrapporsi alle derive autoritarie, alle derive identitarie, a tutti i piani che producono in continuazione repressione dal punto di vista dell'ordine pubblico, dell'immigrazione, dell'esclusione, eccetera, eccetera. Anche quello dell'agire politico in città può essere una sfera interessante, purché questa forma proliferante e non che riproduce in forme mentali il prototipo della forma partito può essere interessante. Grazie.